Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. È appena finito il Consiglio dei Ministri all'Aquila, via libera al decreto legge che stanzia 8 miliardi per il terremoto e via libera anche all'ipotesi di far svolgere il G8 in Abruzzo. Verso il 25 aprile Napolitano dice: l'importante è che ci si unisca, i partigiani, piaccia o non piaccia, furono determinanti per restituire la libertà all'Italia. Parla anche il presidente del Senato Schifani: sia un momento di vera unità per tutti. Eugenio Vagni non è stato liberato, l'operatore italiano della Croce Rossa rapito nelle Filippine sarebbe stato ceduto ad un altro gruppo di ribelli islamici. Fiat, primo trimestre in rosso, ma assicurano i vertici, nel 2009 torneranno gli utili. Zoom verso la presidenza del Sudafrica, l'African National Congress vince le elezioni ma non sfonda. Marco Bellocchio, l'unico regista italiano in concorso al Festival di Cannes. Si celebra oggi la giornata mondiale del libro, un'iniziativa dell'UNESCO. Distorto l'idea della la ratio legis della Costituzione. Ma in effetti poi la cifra era intorno a 50 milioni, si è fatto tanto scandalo su questo. Quello che stiamo sentendo è Silvio Berlusconi che sta parlando in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che oggi si è svolto in via straordinaria all'Aquila. In collegamento dalla caserma della Guardia di Finanza dell'Aquila, appunto dove c'è stata la riunione dei ministri, Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Consiglio dei Ministri dunque durato oltre 2 ore, è stato approvato il decreto per la ricostruzione, ma messaggio importante del governo alla comunità internazionale: la volontà dell'esecutivo italiano di tenere qui il prossimo luglio il G8 in programma, precedentemente in Sardegna, alla Maddalena. La decisione politica è stata presa, è stato spiegato, ora si contatteranno i partner internazionali. Ma veniamo al decreto per la ricostruzione: da 8 miliardi 1,5 per fronteggiare l'emergenza e 6,5 miliardi per la ricostruzione. Le novità annunciate dallo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi in conferenza stampa: per la prima volta si risponde ai fatti, ha detto Berlusconi, come il terremoto, senza aumentare la pressione fiscale. Non si mettono le mani nelle tasche degli italiani, ha aggiunto il Premier. Nel piano triennale di finanza pubblica di fatto si riducono spese, si eliminano sprechi, si spostano risorse per la ricostruzione. 8 miliardi di euro, ha detto ancora Berlusconi, per far tornare alla normalità l'Aquila e la sua provincia. Dunque nessuna nuova tassa, nessun aumento soprattutto delle accise relative ai carburanti e ai tabacchi. E per il momento è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo, tornerai ad aggiornarci naturalmente nel corso della giornata. Risentiamo un'altra parte della conferenza stampa in diretta del Presidente Maddalena del Consiglio. Era persino troppo bella, avremmo avuto anche l'ausilio di una nave che è l'ultima nave tra le navi di lusso, e quindi sarebbe stato per forza un G8 non consono al momento che passiamo tutti per la crisi economica. Queste sono dunque ancora parole del Presidente del Consiglio Berlusconi in diretta dall'Aquila. L'avete sentito, si riferiva naturalmente all'ipotesi di spostare il G8 dalla Maddalena all'Aquila. Il via libera del Consiglio dei Ministri c'è stato, ma naturalmente bisognerà sottoporre la decisione anche agli altri partner del G8 stesso. E c'è un altro tema politico di queste ore, sono le celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della liberazione dal nazifascismo. Questa mattina ha parlato a Torino il Capo dello Stato, ma ha parlato anche il Presidente del Senato Schifani. In aula. In collegamento da Palazzo Madama, Paola Cavadi. Paola, partiamo innanzitutto dalle parole di Napolitano. Buongiorno. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è intervenuto sul tema della resistenza partigiana in vista delle celebrazioni del 25 aprile. Occorre ricordare il contributo di tutte le componenti che parteciparono alla lotta di liberazione nazionale, ha detto il Capo dello Stato, sottolineando l'importanza dell'esperienza partigiana, il cui contributo, ha detto, piaccia o non piaccia, fu determinante per restituire dignità, indipendenza e libertà al nostro Paese. In visita all'ossario di Forno di Coazze, dove sono sepolti 100 dei 300 partigiani morti in Val Sangone, il Capo dello Stato ha rivolto un appello perché in occasione dell'anniversario della liberazione le diverse componenti della resistenza si uniscano in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo. Paola, tu sei a Palazzo Madama nella sede del Senato, da là ha parlato anche il Presidente del Senato Schifani, tra l'altro è la prima volta che viene celebrata una giornata come questa in un'aula parlamentare. Esatto. Questo è la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana che il Senato ha ricordato in modo solenne l'anniversario della liberazione. Il presidente Renato Schifani, quasi a voler stemperare le polemiche degli ultimi giorni, ha usato parole molto equilibrate, ma sentiamo un passaggio del suo intervento in aula. Dopo tanti anni sia finalmente possibile nelle aule parlamentari riconoscerci in un giorno che deve rappresentare un momento di vera unità per tutti i cittadini. Senza appropriazioni, senza esclusioni, senza spirito di parte, ma invece con una ispirazione che sappia unire tutti gli italiani. Grazie a Paola Cavadi, collegata dal Senato, e per la prima volta, come già detto dai giorni scorsi, Silvio Berlusconi parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile. Il Premier sta cambiando dunque strategia, così come lo sta facendo nei confronti, per esempio, della Quirinale. Nei mesi scorsi ci sono state più volte frizioni fra Palazzo Chigi e il Colle, basti citare i richiami di Napolitano sui troppi decreti legge o per esempio sull'uso eccessivo della fiducia. E ieri, come sapete, in occasione della Biennale della Democrazia a Torino, il Capo dello Stato ha detto che la Costituzione non può essere ignorata neanche in forza di un'investitura popolare. Poi ha citato una frase di Bobbio: la denuncia di ingovernabilità tende a suggerire soluzioni autoritarie. Sembra essere un chiaro riferimento a Berlusconi, che nelle scorse settimane aveva detto più volte di avere le mani legate. Eppure il Premier di fatto non ha replicato. Buongiorno a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Stefano, allora, come interpretare questo apparente così silenzio del Premier? Insomma, perché Berlusconi non va più allo scontro diretto con Napolitano? Ma non c'è dubbio che la situazione è molto delicata, perché l'intervento di Napolitano ieri sera è stato molto duro per le ragioni che avete benissimo riassunto adesso. La risposta di Berlusconi è lo specchio appunto di una nuova strategia, di un uomo che si sente molto forte in questo momento e non ha bisogno di alimentare una tensione. La sua impressione è che la forza di cui dispone, e che potrebbe essere accresciuta notevolmente con il voto delle prossime elezioni europee e amministrative, gli permetterà di imporre poi il suo punto di vista. Qual è il suo punto di vista? È chiaramente quello che preoccupa Napolitano, cioè l'affermazione forte del governo anche rispetto al Parlamento in nome di un processo decisionale sempre più rapido, sempre più veloce e sostanzialmente insofferente, diciamo, dei vincoli che sono posti dal punto di vista costituzionale. Quindi Berlusconi ritiene che il Quirinale sia oggettivamente un ostacolo a tutto questo, ma è un ostacolo che lui in questo momento preferisce non vedere, e semmai pensa di aggirarlo raddoppiando, incrementando la sua forza popolare. E quindi è tutta un'attesa, Stefano, molto brevemente, per il risultato delle elezioni europee e delle amministrative, in sostanza. Sì, però la situazione è molto delicata e non bisogna pensare che questo silenzio di Berlusconi significhi che le cose restano tutto sommato come stanno. Ci sono due visioni istituzionali molto diverse, quella di Napolitano e quella di Berlusconi, che si confrontano, e io prevedo che i prossimi mesi saranno, determineranno delle novità importanti e anche delle frizioni molto forti. Staremo dunque a vedere. Grazie a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Noi per un po' lasciamo invece la politica. Sì, e passiamo all'estero. Le notizie sulla sorte di Eugenio Vagni, l'operatore della Croce Rossa, rapito nelle Filippine insieme ad altri due colleghi il 15 gennaio scorso da un gruppo di ribelli islamici del gruppo Abu Sayyaf. Da alcune ore si rincorrono voci sulla sua possibile liberazione, poi smentita. Valentina Furlanetto, che cosa sta accadendo? Sì, il condizionale quindi lo manteniamo, perché Eugenio Vagni sarebbe stato ceduto a un altro gruppo di ribelli. Era stato rapito, come avete ricordato, il 15 gennaio insieme a due altri operatori della Croce Rossa, che sono stati successivamente invece liberati. Il gruppo è appunto quello di Abu Sayyaf. Sembra che le autorità di Manila abbiano fatto un blitz, un'offensiva militare ieri sera, e questo abbia spinto i rapitori a cedere l'ostaggio a un altro gruppo. Teniamo il condizionale perché in mattinata ci sono state tutta una serie di indiscrezioni e voci, per lo più di organi di stampa filippini, che davano addirittura Eugenio Vagni come liberato. Noi abbiamo sentito la Farnesina, a questo punto era giustificata la prudenza con la quale si è espressa la Farnesina e anche la Croce Rossa. Abbiamo sentito il commissario straordinario Francesco Rocca. Atteniamo notizie certe. Al momento non abbiamo ancora una notizia certa, quindi sarei lieto, insomma, di riceverla insieme a voi appena verrà data. So che c'era della preoccupazione da parte della Croce Rossa per un possibile blitz di forze dell'ordine. Beh, noi abbiamo sempre detto che insomma auspicavamo una soluzione, la via del dialogo, e non una soluzione con l'uso della forza, perché è una soluzione che rischia di mettere in pericolo le vite umane, per cui quella era l'auspicio di tutta la Croce Rossa, una soluzione figlia del dialogo. So che Eugenio Vagni ha anche un problema fisico, ha delle difficoltà a camminare. Avete notizie recenti sul suo stato di salute? No, quella aumenta la nostra preoccupazione. Insomma, ci auguriamo che veramente si possa ascoltare questa bella notizia al più presto. Grazie dunque a Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Adesso parliamo di cinema, Alessandra. Sì, perché questa mattina è stato presentato il programma del Festival di Cannes, uno dei più attesi del settore, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Marta Cagnola, allora, come va per gli italiani? Beh, la notizia non era inaspettata, l'avevano previsto anche Bibbie del cinema come l'americana Variety e la francese Première. Il film di Marco Bellocchio, Vincere, è l'unica pellicola italiana che correrà per ottenere la Palma d'Oro appunto a Cannes. Il film è interpretato da Giovanna Mezzogiorno e Filippo Timi, narra la storia di Benito Albino Mussolini. Il figlio cioè è nato dalla relazione che il Duce ebbe con Ida Dalser, e questo figlio fu poi fatto internare a Milano, dove morì nel 42. Con chi dovrà vedersela Bellocchio? Beh, diciamo subito, maestri. Ken Loach, già laureato con la Palma d'Oro, correrà con il film Looking for Eric, su un tifoso di calcio che entra in contatto con il campione Eric Cantona. C'è Lars von Trier con Antichrist, Michela Haneke, c'è Pedro Almodovar con Los Abrazos Rotos, Jane Campion, Palma d'Oro nel 92, collezione di piano. Sei film vengono dall'Asia, c'è Ang Lee con Taking Woodstock, la storia della nascita del famoso raduno musicale del 69, Vengeance di Johnny Toe, girato con il rocker francese Johnny Hallyday, quindi un po' si gioca in casa, e Spring Fever del cinese Louis Yeh. Infine, un altro tocco d'Italia c'è, non solo perché in giuria c'è Asia Argento, ma anche perché l'unico film americano in gara, quello di Quentin Tarantino, insomma un altro grossissimo nome, Palma d'Oro nel 94 con Pulp Fiction, è Inglourious Basterds. Nel cast Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Diane Kruger, ma soprattutto questo film, Inglourious Basterds, che narra le imprese di un gruppo di soldati ebreo-americani in missione nella Francia occupata dai nazisti, è in realtà ispirato, è un omaggio a Quel maledetto treno blindato, un film del 1977 di Enzo G. Castellari, quindi uno di quei film di casa nostra che Quentin Tarantino ama in maniera particolare. Grazie Marta per questi aggiornamenti. Le 13:17 minuti, 31 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato del Consiglio dei Ministri che si è svolto all'Aquila, che ha stanziato 8 miliardi per il terremoto. Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato l'idea di spostare il G8 dalla Maddalena all'Aquila, un'ipotesi che dovrà essere anche vagliata dagli altri paesi dell'altro G8, quello che si sta svolgendo in quelle ore, quello sull'ambiente. Parleremo invece alle 13:35. Abbiamo parlato del 25 aprile col Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che dice che l'importante è che ci si unisca e che i partigiani, piaccia o non piaccia, furono determinanti per restituire la libertà all'Italia. Abbiamo parlato delle notizie che sono arrivate su Eugenio Vagni, l'operatore italiano della Croce Rossa rapito nelle Filippine. Ora ci occupiamo di Fiat. Sì, perché mentre sono ad una stretta finale le trattative con Chrysler, oggi il consiglio di amministrazione di Fiat ha esaminato i conti trimestrali. Nel primo trimestre dell'anno un rosso da 411 milioni, superiore alle attese degli analisti. Il gruppo conferma però gli obiettivi di utile per il 2009. I dettagli da Marco Ferrando, in collegamento da Torino. Marco. Sì, buongiorno. Come dicevate, effettivamente giornata caldissima per Fiat, tra i conti molto attesi sul primo trimestre e il capitolo alleanze. Dunque, andiamo con ordine e partiamo dai conti. La trimestrale approvata questa mattina dal CDA del Lingotto registra per tutto il gruppo utili per 11,2 miliardi, il 25% in meno rispetto al primo trimestre 2008, mentre dai 427 milioni di utile netto del periodo gennaio-marzo 2008 si è passati ai 411 milioni. Come dicevate, cifre più pesanti di quelle previste qualche giorno fa dagli analisti, tuttavia compensate dalla fiducia del gruppo sui mesi a venire. Fiat, infatti, si legge nel comunicato diffuso al termine del CDA, prevede di chiudere l'anno con un utile della gestione ordinaria superiore al miliardo e di 100 milioni di utile netto. Altri elementi significativi, soprattutto in chiave chiave alleanze sono però quelli relativi ad esempio alla liquidità, che è salita a oltre 5 miliardi, erano 3,9 alla fine di marzo. Marco, hai parlato tu, accennavi tu alle alleanze, proseguono le trattative con Chrysler e si torna a parlare di Opel, ci sembra di capire. Infatti ormai è evidente in queste ore che Sergio Marchionne stia lavorando contemporaneamente su due fronti. Da un lato c'è Chrysler, dall'altro c'è Opel e quindi gruppo GM. Ecco, per quanto riguarda Chrysler, proprio nella nota diffusa dal Lingotto insieme ai dati di bilancio, dunque in questo caso la voce è ufficiale, si conferma che i negoziati sono in corso e che un eventuale accordo sarebbe firmato entro il 30 aprile, dunque rispettando la scadenza, come dire, fissata dal presidente Obama. Tra l'altro, sempre riguardo a Chrysler, ieri c'era stata anche l'uscita, la dichiarazione del segretario nazionale della FIM CISL, Bruno Vitali, che aveva detto che l'accordo, in base alle informazioni in suo possesso, fosse questione di ore. In realtà su questo è arrivata una smentita secca dal Lingotto. Invece, per quanto riguarda Opel, la notizia in questo caso arriva dalla Germania e trova qualche conferma dagli Stati Uniti, mentre il Lingotto non si è espresso ufficialmente. Ebbene, Fiat, dice il settimanale Der Spiegel, sarebbe pronta a rilevare una quota di maggioranza di Opel. Una prima conferma è arrivata anche dal consiglio di fabbrica della casa tedesca, che oltre a confermare che le trattative sono in corso, ha anche fatto capire che sia i lavoratori sia i manager comunque sarebbero contrari a un matrimonio con Fiat. Altre informazioni probabilmente nel pomeriggio, visto che alle 16 c'è una conference call con gli analisti. Grazie Marco, grazie Marco Ferrando, collegato da Torino. Noi continuiamo a parlare di economia. Sì, Identità e competizione globale, il titolo dell'edizione 2009 del Festival dell'Economia, che come ogni anno si svolgerà a Trento dal 29 maggio al 1 giugno. Occasione naturalmente per fare il punto su quest'anno molto difficile. Sentiamo il direttore scientifico del Festival, l'economista Tito Boeri. Quello che noi notiamo è che di fronte ad una crisi che è globale c'è sempre una tendenza a ridurre la dimensione in cui si fanno delle scelte, cioè si tende a pensare a livello locale, a trovare delle risposte alla crisi che sono circoscritte e limitate. Questo non è il modo giusto di rapportarsi alla crisi. La crisi richiede invece delle forme di governo globale e quindi richiede davvero che ci sia uno sforzo di coordinamento maggiore tra paesi in Europa e a livello internazionale. Il Festival dell'Economia si interrogherà su questi aspetti, parlerà appunto dei pacchetti di stimolo fiscale e delle politiche che sono state avviate per cercare in qualche modo di ridare solidità e stabilità al sistema finanziario. Si interrogherà anche su quello che potrà essere la nuova geografia economica mondiale che esce dalla crisi, quindi come evolverà il quadro dei vantaggi comparati. Quindi sicuramente guarderemo in là, ma al tempo stesso anche raccoglieremo, come tradizione del Festival dell'Economia, i frutti di una ricerca economica che di punta, d'avanguardia, che si svolge nei vari paesi e che ha portato a dei risultati molto interessanti. Avremo come al solito una partecipazione di ricercatori di ottimo livello. L'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha preso questa mattina una decisione importante che riguarda i collaboratori dei deputati, i cosiddetti portaborse. Elisabetta Fiorito da Montecitorio, buongiorno. Buongiorno, niente più abusivi, niente più portaborse, niente più personale senza contratto. La Camera dei Deputati si mette in regola. Dal 1 luglio Montecitorio non consentirà più l'accesso ai collaboratori dei deputati, i cosiddetti portaborse, senza un rapporto di lavoro ufficiale. Lo ha deciso, come avete detto voi da studio, all'unanimità l'ufficio di presidenza della Camera. Tutti i deputati, quindi, devono provvedere a regolarizzare la posizione dei loro collaboratori entro il 1 luglio. Ricordiamo che sono 513 i collaboratori accreditati per conto di 334 deputati. Tra questi 204 vengono pagati, altri 304 invece sono a titolo non oneroso, vale a dire percepiscono un reddito da pensione o da un altro lavoro, ma non da quello di portaborse. 5 invece sono quelli che svolgono tirocinio. La prevalenza di contratti a titolo non onerosi, quindi non pagati, ha messo in allarme il presidente della Camera Gianfranco Fini, che adesso consentirà l'accesso alla Camera solo ai collaboratori con regolare contratto di lavoro e quindi vengono pagati dal deputato o dal partito in questione. Insomma, collaboratori pagati oppure non si entra. Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Noi parliamo ancora di politica. Con il voto contrario dell'Italia dei Valori e dei Radicali, la Camera ha fatto oggi il primo passo verso lo spostamento del referendum sulla legge elettorale al 21 giugno, giorno degli eventuali ballottaggi alle amministrative. La proposta di legge che sposta la data, a firma Fabrizio Cicchito, è stata assegnata con questo voto della Camera alla Commissione Affari Costituzionali in sede legislativa, ossia sarà la stessa Commissione a votare e approvare la legge. Veniamo ora al decreto sicurezza, convertito ieri in legge dal Parlamento. Come si sa, è stata esclusa dal provvedimento la norma che allungava a 180 giorni il periodo di permanenza degli immigrati nei centri di identificazione ed espulsione, così come voleva soprattutto la Lega. Al momento, dunque, il periodo di permanenza rimane di 60 giorni. E così ci si prepara per sabato alla prima uscita di un nutrito gruppo di clandestini. Sentiamo il prefetto Mario Morcone, che è capo dipartimento del Ministero dell'Interno per l'immigrazione, intervistato da Raffaella Calandra. Mille immigrati trattenuti nei CIE compiono i 60 giorni, limite massimo previsto dalla legge, e quindi usciranno alla mezzanotte, entro la mezzanotte del 25. Questi cittadini avranno naturalmente l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, cosa che naturalmente, se non avverrà, potranno essere arrestati. Queste 1000 persone prevalentemente non hanno commessi reati se non quello di introdursi sul territorio nazionale clandestinamente. Molti di questi, peraltro, hanno interesse ad andare in altri paesi. È una vicenda certamente brutta, frutto di una scelta del Parlamento, e quindi che noi accettiamo. E ci possono essere anche persone invece che, avendo scontato già la pena che gli è stata comminata per un reato, sono stati poi trasferiti nei CIE per il rimpatrio successivo. Da quali paesi in prevalenza provengono? La quota più forte sarà quella dei cittadini tunisini. Visto che molti di questi migranti sono diretti nei loro progetti verso altri paesi europei, c'è un tipo di coordinamento con gli altri paesi? L'Italia si è fatta carico in questo caso di fermare per 60 giorni persone che irregolarmente entravano nell'area Schengen, ed è per questo che si parla di global approach e di necessità di un intervento europeo più ampio, perché evidentemente mai un solo paese può essere destinatario delle vicende di immigrazione illegale. Ora il nostro appuntamento con la maratona fra Betlemme e Gerusalemme, che finalmente si è svolta questa mattina. Andrea Zorzi, nostra voce dell'iniziativa organizzata dal Centro Sportivo Italiano, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Allora Andrea, cosa è successo al sindaco di Betlemme? Ma dunque, stamattina si è presentato il sindaco, che tra l'altro ha una 70 d'anni, tenuto la corsa e si è messo a correre con noi. Ora, come vi ho accennato nei giorni precedenti, la preparazione di questa maratona, coinvolgendo palestinesi e israeliani, è abbastanza accurata, quindi tutti italiani, palestinesi e israeliani devono presentare una lista che deve essere rispettata con molta attenzione. Il sindaco naturalmente non era all'interno di questa lista, anche perché la giunta di Betlemme è parte di Hamas e quindi non è gradita in territorio israeliano. Il sindaco è arrivato con la torcia fino al limite delle confine tra di Betlemme ed Gerusalemme, e a quel punto l'incontro con il responsabile del Ministero del Turismo è stato, come dire, per un attimo di imbarazzo. Si sono abbracciati, però non ha potuto mettere piede in terreno israeliano. Questo ha fatto sì che per la notizia fosse respinto il sindaco di Betlemme, però come accennavo, qui le misure di sicurezza sono naturalmente molto molto rigide, e questa è la conseguenza di qualcosa che in Israele hanno considerato una specie di provocazione, portando la politica all'interno di un contesto nel quale lo sport doveva essere l'unica opportunità per cercare un po' di tranquillità. Sindaco Andrea Zorzi, che tra l'altro è cristiano nonostante sia capo di una giunta di Hamas, per uno strano regolamento della città, giusto? Sì, da qualche anno, non sono certissimo, ma direi che da qualche anno ci sono due città, e sono Nazareth e Betlemme, che per regolamento devono avere un sindaco cristiano. La giunta spesso composta invece da musulmani, che sono la stragrande maggioranza nei territori palestinesi, e questo rende un po' anche addirittura antidemocratiche le elezioni. Però questa è una legge che davvero è in funzione, quindi il sindaco di Betlemme è un cristiano. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Il Consiglio dei Ministri all'Aquila stanzia 8 miliardi per il terremoto, ma non ci saranno nuove tasse, assicura Berlusconi. Il governo approva anche l'ipotesi di spostare il G8 dalla Maddalena in Abruzzo. Napolitano sul 25 aprile, i partigiani, piaccia o non piaccia, furono determinanti per restituire la libertà all'Italia. Eugenio Vagni non è stato liberato. L'operatore italiano della Croce Rossa rapito nelle Filippine sarebbe stato ceduto ad un altro gruppo di ribelli islamici. Fiat, primo trimestre in rosso, ma assicurano i vertici, nel 2009 tornerà saranno gli utili. Trattative con Chrysler verso la stretta finale. Zuma verso la presidenza del Sudafrica. L'African National Congress vince le elezioni ma non sfonda. Marco Bellocchio col suo film Vincere, l'unico regista italiano in concorso al Festival di Cannes. Una notizia appena arrivata in redazione, sempre in tema di crisi economica. Il 2009 resterà un anno molto negativo, non siamo fuori dalla recessione, lo dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ma parla ancora una volta di deboli segnali di miglioramento che le sembrano confermati dai dati. Da un G8 dove ha parlato, perché domani si apriranno i lavori del G8 delle imprese a Cagliari, da un G8 delle imprese passiamo a quello dell'ambiente. Alessandra. Che si sta svolgendo invece a Siracusa. A proposito di ambiente, tra l'altro ricordiamo rapidamente che ieri Barack Obama è tornato a parlare della sua strategia per l'ambiente, ossia la sua rivoluzione energetica. Il piano prevede, lo ricordiamo, investimenti per 15 miliardi di dollari all'anno nell'arco di 10 anni per raddoppiare la produzione di energia pulita. Nuovi impianti per energia eolica, nuovi impianti per energia solare, per la produzione di energia elettrica e 11 miliardi di dollari di investimento per ammodernare la rete di distribuzione. Allora, G8 dell'ambiente a Siracusa, Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore. Partiamo dalla cronaca. Dove ti trovi e che cosa sta succedendo? Sì, buongiorno. Sono su uno dei due ponti che collega Siracusa al suo cuore più antico, l'isola di Ortigia, che è sede del vertice dei ministri G8 dell'ambiente. E fra mezz'ora comincia la manifestazione di protesta e l'atmosfera è quasi surreale. Ora non so se riuscite a sentire il rumore dell'elicottero che è sopra la mia testa, ma io vedo qui... Sì, lo sentiamo bene, Marco. Ecco, la guardia costiera che pattuglia il mare, ci sono veicoli antisommossa, scuole chiuse, negozi sbarrati, alcune banche con le barricate e lo spiegamento di forze dell'ordine è impressionante. Poco fa un po' Marco, ma i contestatori ci sono? Che questo... La domanda è lecita. In verità nessuno è in grado di dire quanti siano i manifestanti, perché al punto dove il punto di raccolta è alcuni chilometri dal punto dove mi trovo adesso, e parlando appunto con le forze dell'ordine poco fa dicevano di non sapere, di non poter stimare quanti siano i manifestanti. L'impressione è che non ci sarà un oceano di persone, però ripeto, a questo momento non lo posso confermare, ma pare impensabile che possano arrivare fino a Ortigia a scalfire la quiete del vertice, visto che l'unico accesso all'isola è rappresentato da questi due ponti. Da questi ponti, infatti. E quindi è facilmente sbarrabile la strada, insomma. Marco, questo è quanto succede fuori. Invece che cosa succede all'interno? Stamani si è parlato in particolare di biodiversità e il ministro Prestigiacomo ha sottolineato biodiversità anche intesa come risorsa economica del pianeta, e la sessione pomeridiana invece tornerà a occuparsi di cambiamenti climatici. Fra l'altro è appena arrivata Lisa Jackson, che è amministratrice dell'EPA, Environmental Protection Agency americana, che certamente porterà il nuovo messaggio dell'America di Obama di cui parlavate prima, cioè il cambiamento climatico è una cosa seria e bisogna agire, e gli USA faranno la loro parte. Però ci tengo a sottolineare che da questo vertice non sono attese decisioni cruciali, se non quella di confermare la volontà degli otto grandi di raggiungere un'intesa sulle emissioni serra a dicembre al vertice di Copenaghen. E grazie Marco Magrini per questa corrispondenza, continueremo a sentirti naturalmente nelle prossime edizioni dei giornali radio e ci aggiorneremo con te. Oggi i vertici politici e non solo, anche i vertici amministrativi dell'Expo 2015 faranno un pochino il punto sulla situazione, di come vanno i lavori per Milano. Ebbene, facciamo il punto anche noi. Urla di gioia, applausi e abbracci. Era stata accolta così il 31 marzo scorso la vittoria parigina di Milano su Smirne per l'Expo 2015. Anche se sembra un evento lontano nel tempo, l'Expo 2015 è in pieno fermento. Diana Bracco, presidente di Assolombarda e presidente della SOGE, società costituita ad hoc per gestire l'Expo, è affiancata ora dall'amministratore delegato Lucio Stanca, che ha presentato a Parigi davanti al Bureau International des Expositions una rivisitazione del dossier di candidatura a progetto definitivo entro il 2010. Oggi l'illustrazione ufficiale dello stato dei lavori al Bureau da parte dei livelli politici. Ai nostri microfoni il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che fa il punto. Per quanto riguarda le infrastrutture siamo assolutamente in orario. Le infrastrutture, come noto, fanno capo al tavolo Lombardia. Non abbiamo perso un solo secondo. Tutte le opere programmate stanno procedendo. Anzi, tra poco si comincia a lavorare su alcune opere fondamentali. Penso alla Brebemi, la direttissima Brescia-Bergamo-Milano. Apriamo i cantieri nel mese di luglio. Penso alla Pedemontana, i cantieri apriranno a primavera dell'anno prossimo, ma spero di anticiparli addirittura a dicembre di quest'anno. La TEM è già ormai approvata in tutte le sue parti, i cantieri apriranno nel 2010 e così tutta una serie di altre opere. Non fanno parte del dossier Expo, ma anche le due autostrade regionali Cremona-Mantova e Broni-Mortara stanno procedendo con la stessa velocità, così come l'alta velocità ferroviaria verso Torino e verso Venezia. E invece è stato accumulato un po' di ritardo nell'altro pilastro dell'organizzazione Expo, e cioè nella SOGE, la cosiddetta società di gestione, si è perso un anno, un po' di meno, ma si è perso un anno. Oggi però l'assetto varato è un assetto che dà assoluta garanzia, con l'onorevole Stanca amministratore delegato, con un equilibrio tra i soci. Oggi fra l'altro saremo a Parigi per presentare di nuovo l'avanzamento dei progetti al Bureau International des Expositions. Meglio perdere tempo subito che partire alla Garibaldina e accorgersi dopo due anni che si è partiti nella direzione sbagliata. Solo pochi giorni fa è giunto anche l'appello dalla stessa Bracco a ritrovare lo spirito e l'unità di Parigi. Nella squadra fondamentale la presenza delle imprese, come spiega Giorgio Squinzi del Comitato Expo di Confindustria e presidente di Federchimica. Senza le imprese sarà difficile far partire qualunque cosa. Sono responsabile della commissione ricerca, innovazione e sviluppo sostenibile di Confindustria per l'Expo 2015. Noi abbiamo iniziato già a lavorare, abbiamo fatto già un primo incontro, abbiamo già messo sul tavolo un po' di idee e adesso stiamo preparandoci a svilupparle. E da parte di Confindustria e delle imprese la voglia di fare c'è. Prima di tutto bisognerebbe che la SOGE e potesse incominciare a funzionare, che ci fossero i giusti finanziamenti, i finanziamenti necessari per partire con l'operatività. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore. La notizia ha fatto naturalmente rapidamente il giro del mondo ed è oggi su tutte le pagine dei giornali italiani e stranieri. È stato trovato morto nella sua abitazione in Virginia David Kellerman, il direttore finanziario della compagnia Freddie Mac, al centro di uno scandalo ben noto negli Stati Uniti. Secondo i media americani si sarebbe impiccato. Giulia Crivelli, come trattano la notizia oggi i quotidiani stranieri? Oh, buongiorno, naturalmente la ne parlano tutti perché è comunque insomma un avvenimento così traumatico che però si inserisce probabilmente in uno scenario così complesso che giornali come Wall Street Journal ne danno notizia ma magari all'interno di articoli sulla crisi. Invece in prima pagina lo mette Financial Times, anche se di taglio basso, e spiega come per ora la polizia diplomaticamente non abbia voluto fare dichiarazioni. Si tratterebbe di un suicidio, così ha dichiarato anche ai media locali la moglie di David Kellerman, che è appunto l'uomo che si è suicidato, si sarebbe impiccato, però non ci sono alcuni punti oscuri. David Kellerman apparentemente non è coinvolto direttamente, quindi sarebbe una cosa diversa dal suicidio per esempio di uno dei responsabili della Enron, non è coinvolto direttamente nel disastro Freddie Mac che da sei mesi è sotto tutela del governo che praticamente l'ha comprata per salvarla, però probabilmente la situazione era comunque insostenibile per lui se il suicidio è collegato direttamente al suo lavoro di Chief Financial Officer di Freddie Mac, oppure forse in realtà il suo coinvolgimento è diverso da come forse viene così superficialmente visto. Giulia, cambiamo decisamente tono argomento. Sappiamo in questi giorni c'è il Salone del Mobile a Milano, quindi gli occhi sono puntati un po' sul capoluogo lombardo, ma non solo gli occhi degli italiani, anche quelli degli stranieri. Sì, del resto basta andare in giro per Milano, è veramente bellissimo in questi giorni, multietnica e coloratissima, perché poi il popolo del design è un popolo particolarmente vivace e colorato. Ne ha parlato anche domenica Financial Times, soprattutto di Zona Tortona, ma in edicola c'è soprattutto il nuovo numero di Monocle, che è questa rivista un po' cult già, ha poco più di un anno di vita, è stata fondata da Tyler Brulé, che è anche il fondatore di Wallpaper, e in questo numero c'è uno speciale sul design, approfittando naturalmente del Salone del Mobile. Tyler in questi giorni tra l'altro è a Milano, ieri sera ha organizzato una festa, un cocktail a Milano, e questo speciale è molto interessante perché tutto sommato suggerisce anche quanto sia strana questa Milano che si anima, si colora quasi per incanto il giorno in cui inizia il Salone del Mobile, tutto al più il giorno prima, e poi torna a spegnersi appena il salone finisce, proprio come un interruttore. Naturalmente l'auspicio sarebbe invece che questa vivacità proseguisse o fosse anticipata almeno di qualche mese. Giulia, chiudiamo con una notizia che darà un grosso dolore a me come a tutti coloro che sono, che amano il commissario Maigret e il personaggio creato da Simenon. Che cosa succede a Parigi? È la prima pagina di Le Figaro oggi con una foto enorme dell'ingresso di questa storica stazione di polizia che è al 36 di Quai des Orfèvres nell'Île de Cité, proprio al centro di Parigi. Innumerevoli personaggi ci sono passati, veri e inventati, come dicevi tu, innumerevoli film sono stati filmati lì, ne ricordo uno bellissimo con Gérard Depardieu e Daniel Auteuil di qualche anno fa. Ebbene, adesso devono chiudere perché un po' perché ristrutturare la sede costerebbe troppo, un po' perché è meglio averne una più grande, e poi quell'edificio in quella zona di Parigi probabilmente, se il governo della città lo vende o lo affitta, può guadagnarci chissà quanto, e così per i nostalgici come me, te, chissà quanti parigini, insomma, bisognerà guardare altrove per cercare i mitici commissari. Le 13:46 minuti 52 secondi, come si diceva, andiamo adesso in Sudafrica. Dopo il voto di ieri, oggi iniziano ad arrivare i risultati, non ci sono stati invece exit poll. Ugo Tramballi, inviato a Johannesburg. La vittoria dell'African National Congress era scontata, il punto è la misura di questa vittoria. Ma per ora la vittoria sembra essere di una certa misura notevole, nel senso che è molto vicino ai 2/3, siamo per ora al 40% dei voti scrutinati, e di questi 40% il 64% è già nelle mani dell'ANC, cioè vuol dire essere a poco più di 2 punti dai 2/3 della maggioranza. Ma non è tanto questo il punto, perché già l'ANC aveva il 2/3 della maggioranza e non ha mai fatto un cattivo uso per cercare di cambiare la Costituzione. Il punto è che finalmente nascono delle opposizioni, per esempio per la prima volta nella storia del Sudafrica democratico un partito diverso dall'ANC ha la maggioranza assoluta in una provincia, cioè il Partito Democratico, sostanzialmente il partito dei bianchi e dei colorati, che ha vinto anche la provincia del Western Cape, la provincia di Città del Capo. Ci sono 2 forze abbastanza notevoli di opposizione, appunto il Partito Democratico e COP, nato da una piccola scissione 6 mesi fa, e questo già è un fatto nuovo nel panorama complessivo politico e democratico sudafricano. Ugo, quali sono le prospettive del Sudafrica? Che cosa si apre? Che fase si apre a questo punto? Si apre una fase in cui bisogna capire se Jacob Zuma, il nuovo presidente, è un leader moderato come sono stati i suoi predecessori, o mostra massimalismo che ha mostrato in questi ultimi 3 o 4 anni. Se non sarà così, sarà brillante come lo è stato in questi anni, cioè una lenta e difficile ma continua. Ecco Ugo, purtroppo la linea telefonica è pessima, quando si fanno i collegamenti con i paesi stranieri non sempre possiamo assicurare la massima qualità. Tra l'altro chiariamo che prima nei nostri titoli parlavamo di una vittoria, diciamo, contenuta dell'African National Congress, perché in base alle notizie che avevamo fino a qualche appunto minuto fa si attestava una vittoria sul 62%, quando invece era prevista ed era attesa almeno al 67%. Invece abbiamo sentito il nostro Ugo Tramballi che ci parlava di una vittoria che supera il 70%. Quindi schiacciante. Ora una storia dal mondo arabo, ma che in realtà riguarda un paesino della Danimarca. Ce la racconta Adib Fateh Ali. È entrata nella storia perché è la prima donna con il velo islamico che fa parte di un consiglio comunale di una grande città in Danimarca. La racconta così la TV satellitare Al-Arabiya, la storia di Asma, una 27enne di origini palestinesi, che ieri è entrata nel consiglio del comune di Odense nell'isola danese di Fionia, in sostituzione di un suo collega eletto nelle file di un partito di estrema sinistra. Voglio che mi giudicate per quel che ho dentro la testa e non per quello che c'è sopra. Si è limitata a dire ai giornalisti prima della riunione, rifiutandosi, come impone la sua fede, di stringere le mani a chi tra gli uomini voleva farlo. Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata del libro e del diritto d'autore, una giornata creata nel 96 dall'UNESCO. Nella riflessione di Salvatore Carruba, che su Radio 24 ogni domenica alle 13.30 conduce Un libro tira l'altro. Più partecipata e suggestiva della giornata mondiale del libro che si celebra oggi è senz'altro quella adottata in Catalogna. Qui, il 23 aprile, si festeggia il patrono San Giorgio e in questa occasione, a Barcellona e nelle altre città, le coppie si scambiano un libro per l'uomo e una rosa per la donna. Un segnale, questa formula, che un libro è innanzitutto un gesto di amore verso di noi e verso gli altri. Per questo, come l'amore, il libro non tramonterà, nonostante la concorrenza dei chip e dei bit. Cambierà forse il modo in cui leggiamo, cambieranno forse i supporti, ma non tramonterà ciò di cui il libro resta simbolo: la capacità e lo sforzo dell'uomo di conoscere, di spiegare, di appassionare, di emozionare. Certo, le nuove tecnologie minacceranno il business tradizionale dell'editoria, come già successo con la musica. E per questo, col libro, oggi si celebra il diritto d'autore, senza il quale non ci sarebbero volumi a case editrici, ma soprattutto creatività e innovazione. A proposito di libri, vi ricordiamo l'iniziativa Io in un libro di Radio 24 in collaborazione con la Fiera di Torino, che quest'anno si svolge dal 14 al 18 maggio. In quale romanzo il vostro io si è più identificato? Quale personaggio della letteratura vi somiglia di più? Le vostre email le potete scrivere al cacciatore di libri @radio24.it. Ogni settimana, nella rubrica Il cacciatore di libri, in onda il sabato intorno alle 8:20, in replica il venerdì, verranno regalati due biglietti per la fiera. Vi ricordiamo che anche Radio 24 sarà presente alla Fiera del Libro con i propri studi nel padiglione 2. Infine vi ricordiamo che oggi la rubrica Job 24, che andrà in onda fra pochissimo, si occuperà proprio delle professioni dell'editoria. GR Extra Large si chiude, ecco le principali notizie della giornata. Napolitano sul 25 aprile, partigiani, piaccia o non piaccia, furono determinanti per restituire la libertà all'Italia. Il Consiglio dei Ministri all'Aquila stanzia 8 miliardi per il terremoto, ma non ci saranno nuove tasse, assicura Berlusconi. Il governo approva anche l'ipotesi di spostare il G8 dalla Maddalena in Abruzzo. Eugenio Vagni non è stato liberato, l'operatore italiano della Croce Rossa rapito nelle Filippine sarebbe stato ceduto ad un altro gruppo di ribelli islamici. Fiat primo trimestre in rosso, ma assicurano i vertici, nel 2009 torneranno gli utili, trattative con Chrysler verso la stretta finale. Zuma verso la presidenza del Sudafrica, l'African National Congress ha vinto le elezioni. Marco Bellocchio col suo film Vincere, l'unico regista italiano in concorso al Festival di Cannes. È tutto per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.